Questa è una 44 Magnum, una delle pistole più potenti del mondo, capace di far saltare la testa ad un toro. Che effetto fa vista dalla vostra parte?